Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Solo i giovani hanno momenti simili. Non dico i giovanissimi, no. I giovanissimi, ad essere esatti, non hanno momento alcuno. È privilegio della prima giovinezza vivere in anticipo i propri giorni, in tutta la magnifica continuità della speranza, ignara di ogni indugio o introspezione. Ci si chiude alle spalle il cancelletto dell'infanzia e si entra in un giardino incantato. Qui persino le ombre brillano promettenti. Ogni svolta del sentiero ha una sua seduzione. E ciò non perché sia paese inesplorato. Si sa bene che l'intera umanità è defluita per quella strada. È l'incanto dell'universale esperienza, da cui ci si attende una sensazione straordinaria o personale, un briciolo di se stessi. Si procede ravvisando le pietre miliari dei predecessori, eccitati, divertiti, accogliendo insieme e la cattiva e la buona sorte, il bastone e la carota, secondo il detto, quel comune destino pittoresco che ha in serbo tante possibilità di successo per i meritevoli, o forse per i fortunati. Sì, si procede. E il tempo, anche lui, procede, finché davanti non si scorge una linea d'ombra, la quale avverte che anche la regione della prima giovinezza deve essere lasciata alle spalle. Questo è il periodo della vita in cui di solito capitano i momenti che dicevo prima. Quali momenti? Beh, i momenti di tedio, di stanchezza, di scontento. Momenti avventati. Intendo dire i momenti in cui chi è ancora giovane è portato a compiere gesti avventati come sposarsi all'improvviso oppure abbandonare un lavoro senza alcun motivo. Questa non è la storia di un matrimonio. Non mi capitò così brutta. Il mio atto, pur avventato, ebbe piuttosto carattere di divorzio, quasi di diserzione. Senza alcun motivo di cui una persona ragionevole potesse rendersi conto, abbandonai il mio lavoro. Lasciai il mio posto. Me ne andai dalla nave di cui, al peggio, si poteva dire che era un piroscafo, e quindi forse non meritevole della cieca fedeltà che... Comunque, è vano voler indorare la cosa, se io stesso ebbi già allora il sospetto che si trattasse di capriccio. Accadde in un porto orientale. La nave era orientale, poiché quello era allora il suo porto di immatricolazione. Trafficava tra isole scure, su un mare azzurro butterato di scogli, con la rossa bandiera della marina mercantile sopra il coronamento di poppa e alla testa d'albero una bandiera d'armatore pure rossa, ma con un bordo verde e mezzaluna bianca. Infatti l'armatore era un arabo, anzi un Syed. Da ciò il bordo verde alla bandiera. Era a capo di una grande casa araba degli stretti, ma fedele suddito del complesso impero britannico, tra i più fedeli di quanti si trovavano ad oriente del canale di Suez. Non si curava affatto della politica mondiale, ma godeva di un grande e occulto potere tra la sua gente. A noi poco importava chi fosse l'armatore. Per quella parte della sua attività che riguardava la navigazione, doveva assumere dei bianchi, e molti di quelli così assunti non lo avevano mai visto dal primo all'ultimo giorno. Io stesso lo vidi una volta sola, per puro caso, su una banchina, un vecchietto scuro, cieco di un occhio, con una tunica nivea e babbucce gialle. Una frotta di pellegrini malesi, ai quali aveva fatto qualche dono, in viveri e denaro, gli stava baciando la mano austeramente. Le sue opere di carità, mi hanno riferito, erano estesissime e coprivano quasi l'intero arcipelago. Non è detto forse che l'uomo caritatevole è amico di Allah? Ottimo e pittoresco armatore arabo, di cui non occorreva darsi pensiero. E una più che ottima nave scozzese, tale era in realtà dalla chiglia in su, che teneva ottimamente il mare, di facile manutenzione, buona manovriera in ogni circostanza e, se non fosse stato per la sua propulsione interna, degna dell'amore di qualsiasi marinaio. Conservo ancora oggi un profondo rispetto per la sua memoria. Quanto al genere di traffico al quale era addetta e al carattere dei compagni di bordo, non avrei avuto maggiore fortuna se vita ed uomini me li avesse fatti su ordinazione un mago benigno. Ed improvviso lasciai tutto. Lo lasciai in quel modo, per noi incongruente, con cui un uccello vola via da un comodo ramo. Fu come se inconsapevolmente avessi udito un sussurro o visto qualcosa. Beh, può darsi. Un giorno stavo benissimo e l'indomani tutto era scomparso. Fascino, gusto, interesse, soddisfazione. Tutto. Era uno di quei momenti, sapete. Mi assalì il nascente malessere della tarda giovinezza e mi portò via. Mi portò via da quella nave, intendo dire. Si era soltanto in quattro bianchi a bordo, con un numeroso equipaggio di calasci e due sottufficiali malesi. Il capitano rimase a fissarmi come chiedendosi che cosa mi avesse preso. Ma era anzitutto un marinaio ed una volta era stato giovane anche lui. Presto sorrise sotto i folti baffi brizzolati e osservò che, naturalmente, se sentivo di dovermene andare, non poteva trattenermi con la forza. E si stabilì che la liquidazione mi sarebbe stata pagata l'indomani mattina. All'improvviso, mentre già uscivo dalla sala nautica, aggiunse con un tono particolare, meditabondo, che mi augurava di trovare ciò di cui, con tanta ansia, andavo in cerca. Un parlare pacato, enigmatico, che pareva penetrare più a fondo di qualsiasi arnese duro come il diamante. Credo proprio che avesse capito il mio caso. Ma il secondo macchinista mi attaccò in maniera diversa. Era un giovane scozzese, ben piantato, con la faccia liscia e gli occhi chiari. Dalla scaletta di boccaporto della sala macchine sbucò il suo onesto volto rosso e poi l'intera robusta persona. Con le maniche della camicia rimboccate, si tergeva lentamente le solide braccia con una manciata di strofinacci di cotone. E negli occhi chiari c'era un'espressione di amaro disgusto, come se la nostra amicizia si fosse polverizzata. Disse con tono grave: «Già, lo prevedevo che da un momento all'altro saresti scappato a casa a sposare una qualche sciocchina». In porto si dava per sottinteso che John Niven fosse un feroce misogino. E quella sua uscita, assurda, mi convinse che intendeva mostrarsi sgradevole, sgradevolissimo, schiacciandomi sotto quanto di peggio gli poteva venire in mente. La mia risata ebbe l'aria di respingere l'accusa. Solo un amico poteva arrabbiarsi a tal punto. Cominciavo a sentirmi un po' abbattuto. Anche il direttore di macchina formulò un suo particolare giudizio sul mio gesto, però con intendimento più benevolo. Era giovane anche lui, ma magrissimo, con un velo lanuginoso di barba bruna tutto intorno al volto sparuto. Da mane a sera, in mare o in porto, lo si vedeva camminare in fretta su e giù per la coperta a poppa con un'espressione intensamente spirituale ed estatica che gli proveniva dalla continua percezione di spiacevoli sensazioni fisiche nella sua economia interna. Era infatti un dispettico inveterato. Il suo parere sul mio caso fu semplicissimo. Disse che si trattava solo di disfunzione epatica. Era ovvio. Mi consigliò di fermarmi per un altro viaggio e di curarmi, nel frattempo, con una specialità in cui aveva una fede assoluta. «Adesso ti dico cosa faccio. Te ne compro due bottiglie di tasca mia. Eccola. Più di questo non posso dire», Non ti pare? Credo che avrebbe perpetrata tale atrocità o generosità al minimo cenno di debolezza da parte mia. Ma intanto ero più che mai scontento, disgustato e incaponito. Gli ultimi 18 mesi, così pieni di nuove e varie esperienze, apparivano come un tetro, prosaico spreco di tempo. Sentivo, come potrei dire, che non c'era da ricavarne alcuna verità. Quale verità? Sarei stato in grave imbarazzo a doverlo spiegare. È probabile che, messo alle strette, sarei semplicemente scoppiato a piangere. Ero ancora abbastanza giovane per farlo. Il giorno dopo, il capitano ed io sistemammo le nostre faccende alla capitaneria di porto. Era un camerone alto, ampio, fresco e bianco, in cui splendeva serenamente la luce schermata del giorno. Là dentro, tutti, impiegati e pubblico, erano vestiti di bianco. Soltanto al centro, la doppia fila delle pesanti scrivanie lucidate dava cupi riflessi e alcune carte che vi erano posate sopra erano azzurre. Enormi punca mandavano dall'alto una lieve corrente d'aria attraverso l'ambiente immacolato e sulle nostre teste sudate. L'impiegato, che era dietro la scrivania alla quale ci avvicinammo, fece un amabile sorriso e lo conservò fino a quando, in risposta alla meccanica domanda di rito, sbarco e reimbarco, il mio capitano rispose «No, sbarco definitivo». Allora il sorriso si cancellò sotto un'espressione di improvvisa gravità. Egli non mi rivolse più lo sguardo fino al momento in cui mi consegnò i miei documenti con aria rattristata, quasi fossero il mio passaporto per gli inferi. Mentre li riponevo, egli mormorò una domanda al capitano ed udì quest'ultimo che rispondeva con buon umore: «No, ci lascia per rimpatriare». «Oh!» esclamò l'altro, annuendo malinconicamente per la mia triste condizione. Non l'avevo mai visto fuori dell'ufficio, ma si sporse oltre il tavolo a stringermi la mano, con compassione, come si farebbe con un poveraccio che esce per andare alla forca. E temo di aver recitato la mia parte sgarbatamente, col cinismo di un criminale incallito. L'arrivo di un postale diretto in Inghilterra non era previsto prima di 3 o 4 giorni. Poiché ormai ero un marinaio senza nave e avevo temporaneamente rotto i rapporti col mare, ero diventato in realtà un semplice passeggero in potenza, sarebbe stato forse più giusto alloggiare in un albergo. Per di più ce n'era uno lì, nei pressi della capitaneria, basso ma piuttosto sontuoso, che metteva in mostra i suoi padiglioni bianchi a colonne in mezzo a lindi tappeti erbosi. Là dentro mi sarei sentito proprio un passeggero. Gli lanciai un'occhiata ostile e diressi i miei passi verso la casa dell'ufficiale e del marinaio. Camminai in pieno sole, senza curarmene, e all'ombra dei grandi alberi della spianata, senza goderne. Il caldo dell'Oriente tropicale calava di tra i rami fronzuti, avvolgendomisi al corpo sotto gli abiti leggeri e aderendo alla mia ribelle insoddisfazione, come a frodarla della sua libertà. La casa dell'ufficiale era un grande bungalow con larga veranda e cespugli di un piccolo giardino di apparenza stranamente suburbana e alcuni alberi che lo separavano dalla strada. Aveva un po' del circolo residenziale privato, ma anche una lieve aura governativa perché era amministrato dalla capitaneria. La qualifica ufficiale del direttore era capo cambusiere. Si trattava di un omino triste, grinzoso, che se avesse indossato una giubba da fantino avrebbe potuto benissimo sembrare tale. Ma era evidente che a un certo momento della sua vita, in un modo o nell'altro, aveva avuto rapporti col mare, probabilmente sotto la forma di un totale fallimento. Avrei giudicato assai poco faticose le sue mansioni, ma lui continuava a ripetere che, prima o poi, quel posto sarebbe stato la sua morte. Asserzione piuttosto misteriosa. forse per sua natura, tutto gli riusciva di eccessivo fastidio. In ogni caso, pareva detestare la presenza di ospiti nella casa. Entrandovi, pensai che aveva di che essere contento. C'era un silenzio di tomba. Non vidi nessuno nelle stanze di soggiorno. E anche la veranda era vuota, ad eccezione di un uomo in dormiveglia all'altra estremità, steso bocconi su una poltrona a sdraio. Al rumore dei miei passi aprì un solo, orribile occhio da pesce fradicio. Non lo conoscevo. Tornai sui miei passi e attraverso la sala da pranzo, locale spoglio con un punca che penzolava in moto sopra la tavola di centro, andai a bussare ad una porta che recava in lettere nere la scritta «Capo Cambusiere». Poiché al mio bussare rispose con un lamento contrariato e dolente «Oddio, oddio, che cosa c'è adesso?», entrai senz'altro. Era strano trovare una simile camera ai tropici. L'amico aveva appeso alle finestre della sua stanza, che erano chiuse, cortine di merletto a poco prezzo, enormemente ampie e polverose. Pile di scatole di cartone, come ne usano in Europa modiste e sarte, ingombravano gli angoli. E si era procurato, chissà come, un genere di arredamento che poteva venire benissimo da qualche rispettabile salotto dell'East End londinese. Un sofà imbottito di crine di cavallo, poltrone uguali. Vidi di sfuggita coprischienali all'uncinetto di dubbia pulizia, disseminati su quella orrida roba imbottita, che tanto più vi riempiva di timore reverenziale in quanto non si riusciva a indovinare quale misterioso accidente, bisogno o fantasia l'avesse lì radunata. Il suo proprietario si era tolta la giubba e in calzoni bianchi e maglietta sottile con maniche corte si aggirava dietro gli schienali delle sedie soffregandosi i gomiti magri. Gli sfuggì un'esclamazione di smarrimento quando seppe che ero venuto per fermarmi, ma non gli fu possibile negare che c'era una quantità di camere libere. «Benissimo, potete darmi quella dell'altra volta?» Emise un debole gemito da dietro le scatole di cartone ammonticchiate sul tavolo, che forse avevano contenuto guanti o fazzoletti o cravatte. Mi chiedo che cosa ci tenesse costui. In quel suo covo c'era tanfo di corallo in putrefazione o di polvere orientale, di esemplari zoologici. Di lui vedevo solo la sommità del capo e gli occhi tristi alzati su di me oltre la barricata. «Si tratta solo di un paio di giorni», dissi, nell'intento di tirarlo un po' su. «Non gradireste pagare anticipato?» suggerì ansiosamente. «Ma no, di certo», sbottai appena ritrovata la parola. «È inaudito! Questa è la più diabolica faccia tosta!» Si era stretta la testa fra le mani. Gesto di disperazione che frenò il mio sdegno. «Oddio, oddio, non andate in collera a questo modo, lo chiedo a tutti!» «Non ci credo», dissi seccamente. «Beh, lo farò! E se voi tutti, signori, accettate di pagare in anticipo, riuscirò a far pagare il conto anche ad Hamilton. Ogni volta che sbarca è senza un soldo, ed anche se ha denaro non paga. Non so più che cosa fare con lui. Mi insulta e mi dice che da queste parti un bianco non si butta in mezzo alla strada!» «Perciò, se solo voleste...» Ero stupefatto e poco convinto. Avevo il sospetto di una gratuita impertinenza da parte di costui. Gli dissi che avrei preferito piuttosto vedere impiccati lui ed Hamilton e lo invitai a condurmi alla mia camera senza altre sciocchezze. Allora tirò fuori una chiave, non so da dove, e mi precedette fuori dalla sua tana, lanciandomi, mentre mi passava accanto, un'occhiata malevola in tralice. «C'è qui qualcuno che conosco?» chiesi prima che uscisse dalla mia camera. Aveva ritrovato l'intonazione lamentosa e stizzita e disse che c'era il capitano Gilles di ritorno da un viaggio nel Mar di Sulu. C'erano anche due altri ospiti. Si interruppe. «E naturalmente Hamilton», aggiunse. «Oh già, Hamilton», dissi. E il miserando individuo si ritirò con un ultimo gemito.